Infine, il signor di Charlus era compassionevole. L'idea d'un vinto lo faceva star male. Era sempre per il debole. Non leggeva le cronache giudiziarie per non dover soffrire nella propria carne l'angoscia del condannato e l'impossibilità d'assassinare il giudice, il carnefice e la folla, che si estasia vedendo che giustizia è fatta. Era comunque convinto che la Francia non poteva più essere sconfitta e sapeva, per contro, che i tedeschi pativano la fame e sarebbero stati costretti, un giorno o l'altro, ad arrendersi senza condizioni. Questa idea, anche questa, gli era resa più spiacevole dal fatto di vivere in Francia. I suoi ricordi della Germania erano, malgrado tutto, lontani, mentre i francesi che parlavano dell'annientamento della Germania con una gioia che lo indisponeva erano persone i cui difetti gli erano noti, la faccia antipatica. In casi del genere, uno compiange quelli che non conosce, che immagina più di quelli che gli stanno accanto nella volgarità della vita quotidiana, a meno, si capisce, di non essere tutt'uno con loro, di non fare con loro un'unica carne. Il patriottismo compie questo miracolo. Si è per il proprio paese come si è per se stessi in una disputa amorosa. Così la guerra, per il signor di Charlus, era una coltura straordinariamente feconda di quegli odi che gli nascevano dentro in un istante e avevano una durata brevissima, ma nel corso della quale si sarebbe abbandonato a qualsiasi violenza. Leggendo i giornali, il tono di trionfo dei cronisti che presentavano ogni giorno la Germania in ginocchio, la belva agli estremi, ridotta all'impotenza, mentre era sin troppo vero il contrario, lo faceva impazzire di rabbia per la sua stupidità allegra e feroce. I giornali erano in parte redatti in quel periodo da persone conosciute che trovavano così modo di riprendere servizio dai vari Brichot e Norpois, dallo stesso Morel, da Le Grandin. Il signor di Charlus sognava di incontrarli, di subissarli dei più amari sarcasmi. Sempre particolarmente edotto delle tare sessuali, le conosceva in certuni che, pensandole ignorate per quanto le riguardava, si compiacevano di denunciarle nei sovrani degli imperi predatori, in Wagner, eccetera. Ardeva dal desiderio di trovarsi a faccia con loro, di sbattergli sul muso il loro vizio davanti a tutti e di lasciare disonorati e senza fiato quegli insultatori d'un vinto. Infine, Charlus aveva ragioni ancora più particolari per essere germanofilo. La prima era che, da uomo di mondo, aveva vissuto molto fra le persone di mondo, le persone onorate, le persone d'onore, le persone che non stringerebbero mai la mano a una canaglia. Ne conosceva la delicatezza e il rigore. Le sapeva insensibili alle lacrime d'un uomo che fanno scacciare da un circolo o con cui rifiutano di battersi, dovesse anche il loro atto di pulizia morale significare la morte per la madre della pecora nera. Suo malgrado, e per quanto potesse ammirare l'Inghilterra per il modo ammirevole con cui era entrata in guerra, l'Inghilterra impeccabile, incapace di mentire, che impediva al grano e al latte d'arrivare in Germania, era un po', fatto nazione, quell'uomo d'onore, quel padrino patentato, quell'arbitro in questioni d'onore, mentre lui sapeva che gente tarata, canaglie come certi personaggi di Dostoevskij, possono essere migliori, e non sono mai riuscito a capire perché egli identificasse costoro con i tedeschi, la menzogna e l'astuzia non bastando a far presumere un buon cuore di cui non sembra che i tedeschi abbiano dato prova. Un ultimo tratto, infine, completerà la germanofilia del signor di Charlus. Essa gli veniva, e per una reazione assai bizzarra, dal suo charlismo. Trovava i tedeschi molto brutti, forse perché erano un po' troppo vicini al suo sangue. Andava pazzo per i marocchini, ma soprattutto per gli anglosassoni, che gli sembravano statue viventi di fidia. Ora, il piacere non era esente in lui da una certa idea crudele di cui io non conoscevo ancora a quel tempo tutta la forza. L'uomo che amava gli appariva come un delizioso carnefice, gli sarebbe sembrato, prendendo partito contro i tedeschi, di agire come agiva solo nelle ore di voluttà, vale a dire in senso opposto alla sua natura compassionevole, cioè infiammato dal male seducente e calpestando la virtuosa bruttezza. Fu così anche al momento dell'assassinio di Rasputin, assassinio in cui, del resto, ci si stupì di trovare una così forte impronta di colore russo, con quella cena alla Dostoevskij, impressione che sarebbe stata ben più forte se il pubblico non avesse ignorato dell'intera faccenda ciò che Charlie sapeva perfettamente. Perché la vita ci delude a tal punto che finiamo col credere che la letteratura non abbia con essa alcun rapporto e restiamo stupefatti vedendo come le preziose idee mostrateci dai libri si dispieghino senza timore di sciuparsi, gratuitamente, naturalmente, in piena vita quotidiana, e per esempio una cena, un assassinio, avvenimenti russi abbiano qualcosa di russo. La guerra si prolungava indefinitamente e chi aveva annunciato da fonte sicura, ormai parecchi anni prima, che le trattative di pace erano cominciate, specificando le clausole del trattato, non si curava, quando conversava con voi, di scusarsi per avervi dato notizie false. Se ne erano dimenticati ed erano pronti a propalarne in buona fede altre che avrebbero dimenticate altrettanto rapidamente. Era il periodo in cui c'erano continue incursioni di gota. L'aria sfrigolava senza sosta ad una vibrazione vigile e sonora di aeroplani francesi, ma di tanto in tanto risuonava la sirena come un lacerante richiamo di Valchiria, unica musica tedesca che si fosse sentita da quando c'era la guerra, finché i pompieri non annunciavano che l'allarme era finito, accompagnati dalla berlocca che come un invisibile monello commentava a intervalli regolari la buona notizia e lanciava in aria il suo grido di gioia. Il signor di Charlie vedeva con stupore persone come Brichot, che prima della guerra erano state militariste e rimproveravano alla Francia soprattutto di non esserlo abbastanza, rimproverare alla Germania non soltanto gli eccessi del suo militarismo, ma persino la sua ammirazione per l'esercito. Certo, non appena era questione di rallentare la guerra contro la Germania mutavano parere e denunciavano con ragione i pacifisti. Ma Brichot, per esempio, che nonostante i suoi occhi aveva accettato di occuparsi nelle sue conferenze di certi libri pubblicati nei paesi neutrali, esaltò il romanzo d'uno svizzero in cui venivano scherniti, come germe di militarismo, due bambini presi da un'ammirazione simbolica alla vista d'un dragone. Questo scherno non mancava di dispiacere, per altre ragioni, al signor di Charlie, il quale stimava che un dragone potesse essere qualcosa di decisamente bello, ma soprattutto non capiva l'ammirazione di Brichot, se non per il libro, che il barone non aveva letto, per il suo spirito, così diverso da quello che animava Brichot prima della guerra. Allora tutto ciò che facevano i militari era bene, fossero anche le irregolarità del generale de Boisdeffre, i travestimenti e le macchinazioni del colonnello du Paty de Clam, il falso del colonnello Henri. Per quale straordinario volta faccia, che in realtà era solo un'altra faccia, della stessa nobilissima passione, la passione patriottica, costretta da militarista che era quando lottava contro il dreyfusismo, di tendenza antimilitarista, a farsi quasi antimilitarista adesso che ciò contro cui lottava era la supermilitarista Germania, Brichot esclamava: «Oh, spettacolo invero mirifico e degno d'attrarre la gioventù d'un secolo tutto di brutalità che conosce solo il culto della forza, un dragone! Si può immaginare cosa sarà la vile soldatesca d'una generazione educata al culto di siffatte manifestazioni di forza brutale!» Così Spitteler, volendo contrapporlo a codesta vergognosa concezione della sciabola sopra ogni altra cosa, ha simbolicamente esiliato nel più profondo dei boschi, schernito, calunniato, solitario, il personaggio del sognatore da lui chiamato Lo studente folle, in cui l'autore ha deliziosamente incarnato la dolcezza, ahimè, fuori moda, e ben presto potremo dire obliata, se non infranga il regno atroce del loro vecchio Dio, la dolcezza adorabile dei tempi di pace. Insomma, mi disse il signor di Charlus, voi conoscete Cottard e Cambremer. Ogni volta che li vedo, mi parlano della straordinaria mancanza di psicologia della Germania. Detto fra noi, vi sembra che prima d'ora si siano mai preoccupati della psicologia e che anche adesso siano capaci di darne prova? Credetemi, non esagero. Quando anche si trattasse del più grande tedesco, di Nietzsche, di Goethe, sentirete Cottard dire, con la solita mancanza di psicologia che caratterizza la razza teutonica. Evidentemente ci sono cose nella guerra che mi rattristano di più, ma dovete ammettere che è irritante. Non lo può, lo riconosco, è più fine, anche se sin dall'inizio non ha mai smesso di prendere abbagli, ma cosa mai vogliono dire quegli articoli che suscitano l'entusiasmo generale? Voi sapete quanto me, caro signore, cosa vale Brichot, al quale io voglio molto bene, anche se, a causa dello scisma che mi ha separato dalla sua piccola chiesa, lo vedo molto meno di prima. Tutto sommato, ho una certa considerazione per quell'insegnante di collegio, ben istruito e buon parlatore, e ammetto che è davvero commovente che alla sua età e minorato com'è, perché lo è in modo assai sensibile da alcuni anni, si sia rimesso, come dice lui, a servire. Ma, insomma, la buona intenzione è una cosa, il talento un'altra. E Brichot di talento non ne ha mai avuto. Ammetto di condividere la sua ammirazione per certe grandezze della guerra attuale. Semmai è bizzarro che un partigiano cieco dell'antichità, come Brichot, così sarcastico a suo tempo contro Zola, che trovava più poesia in una famiglia di operai, nelle miniere, che nei palazzi storici, o contro Goncourt, che metteva Diderot al di sopra di Omero, e Watteau al di sopra di Raffaello, non la finisca di ripeterci che le Termopili e persino Austerlitz non sono niente in confronto a Vauquois. Stavolta, del resto, dopo aver resistito ai modernisti della letteratura e dell'arte, il pubblico segue quelli della guerra, perché pensarla così è di moda, e poi perché le piccole menti sono sopraffatte non dalla bellezza, ma dall'enormità dell'azione. Ormai si scrive solo colossale, solo con la K. Ma ciò davanti a cui ci si inginocchia è proprio il colossale. A proposito di Brichot, avete visto Morel? Mi dicono che vorrebbe rivedermi. Non ha che da fare il primo passo. Io sono il più vecchio. Non tocca a me cominciare. Disgraziatamente, già il giorno dopo, anticipiamolo qui, il signor di Charlus si trovò per la strada a faccia con Morel. Questi, per eccitare la sua gelosia, lo prese per il braccio, gli raccontò delle storie più o meno vere, e con Charlus ormai perduto, posseduto dal bisogno che Morel restasse quella sera accanto a lui, che non andasse altrove, l'altro, visto un amico, disse addio al barone. E mentre questi, sperando con tale minaccia, che ben inteso non avrebbe mai messa in atto, di farlo restare, gli diceva «Sta attento, mi vendicherò!» Se ne andò ridendo, pizzicando sul collo e cingendo alla vita l'amico stupefatto.